credo che questo sia il motivo, poi così mi rilasso, esatto, diciamo. Infatti penso che Coxo Spaziale serva a rilassarsi dopo questa esperienza un po' così. Devo dire che anch'io questa settimana ho avuto un po' di problemi, nel senso che comunque l'Art Week di Bologna è stato un evento notevole, presumo anche per te, anche se tu in realtà immagino che l'Art Week l'hai vista molto poco. Ma in realtà, guarda, ti dico la verità, sì, chiaramente non l'ho vista probabilmente come altri, perché avendo Booming, che insomma, certo, mi ha impegnato non solo i mesi prima, settembre, ottobre, novembre, dicembre, eccetera, eccetera, ma gennaio in particolar modo, e poi la settimana dell'Art Week, diciamo 18 ore al giorno. Però in realtà mi do sempre, mi impongo sempre il venerdì mattina e il sabato mattina dell'Art Week, mi impongo di andare a vedere due. Sì, sempre. E cosa hai visto di bello? Ho visto Yuri Ankarani al Mambo, certo. Poi ho visto un artista che io adoro, la Natalie Dumberg, Cassero, che è straordinaria. E poi ho visto una mostra in uno studio di avvocati in via Santo Stefano, vicino a casa mia, che in realtà ho fatto aprire all'una, ma proprio perché io dovevo andare a Booming chiaramente alle 3 del pomeriggio di sabato. È curata da De Chirico, dove c'è un artista straordinario che si chiama Carlo Cossignani, che seguo da tantissimi anni, e poi devo dire la verità, è stato studente all'Accademia di Belle Arti, insomma, diciamo alla fine degli anni 90 con me, per cui lo conosco benissimo, per cui qualcosa ho visto, e sicuramente questa settimana che sono un po' più libera, devo dire, andrò sicuramente a vedere Mondino, curato dalla Silvia Evangelisti, di cui abbiamo parlato 3 settimane fa. No, ma è un Art Week, è stata un Art City pazzesca. No, infatti ci sono ancora un po' di mostre su che meritano di essere viste, anzi di una poi ne parleremo fra un po'. Tu sei la direttrice di Booming, raccontiamo ai nostri ascoltatori ignari che cos'è Booming. Allora, Booming è la terza edizione, è la fiera d'arte contemporanea indipendente, no? Che si occupa soprattutto, e poi quest'anno in modo particolare, degli artisti della generazione Z, quindi degli artisti nati dopo il 1990 e nello specifico nate dopo il 1996. Lo facciamo dal terzo anno, poi è chiaro siamo stati un po' interrotti anche noi chiaramente dalla pandemia, allo spazio Dumbo, che io ritengo veramente che sia uno degli spazi più incredibili della città, un po' anche per amore, nel senso che io quando arrivai a Bologna nel 95-96 abitavo proprio lì di fronte. E quindi ho visto questo spazio abbandonato fin da ragazzina, e poi ho visto quello che è successo, insomma, la Yarda del Ravone, tutti i writer, i graffittari, insomma, che andavano dentro, e ritengo veramente che sia un luogo magico, incredibile, in cui sono successe e finalmente risuccedono tante cose, insomma. Certo, no, in effetti devo dire che Bologna sta un po' rivivendo quell'atmosfera quasi magica degli anni 90, sì, in cui io non c'ero, ne ho solo sentito parlare. No, io c'ero alla grande, infatti. sì. E quindi sì, insomma, abbiamo ho scoperto oggi che abbiamo fatto la stessa scuola di pittura di Concetto Pozzati all'Accademia. Per fortuna, no? Siamo usciti tutti da quella scuola incredibile, esatto, di Concetto Pozzati, poi vabbè, dei privilegi. Dei grandi privilegiati, sì. E secondo me anche abbiamo questa modalità di approccio nella vita, insomma, che era tipica del non insegnamento di Pozzati, perché in realtà, tu lo sai benissimo, Pozzati non voleva insegnare niente, voleva aprire cassettini. Esatto. E quindi, insomma, abbiamo quella modalità lì. Poi io ho anche la modalità un po' della Silvia Evangelisti, che seguivo nel suo periodo di direttrice di Arte Fiera, come se fosse un segugio. Ah, certo. E poi per fortuna anche, dicevamo, appunto, quella desiderio, quell'urgenza di conoscere la storia dell'arte di Adriano Baciglieri. Chiaro. chiaro che io ricordo sempre con molto molto affetto, anzi se riesco mi piacerebbe fare una puntata apposita su Adriano perché se la merita. Beh, io ho un aneddoto. Ah, dai, grande. Sai, no? Se vuoi un attimo iniziare o se preferisci. No, dimmelo subito che sono curioso come una scimmia naturalmente. Beh, sai che fra pochi giorni uscirà questo mio piccolo saggio che si chiama Fiere, no? Ok. Fiere che ha tre significati. Uno certo. È fiere come sistema fieristico, fiere perché sono fiera di essere indipendente e ribelle come sempre, però fiere anche come le bestie feroci, no? Uh-huh. E praticamente c'è un passaggio di questo libro in cui ricordo un esame a 40 gradi fatto con di storia dell'arte con Adriano Baciglieri all'interno del cortile dell'Accademia di Belle Arti, sai quel cortile che ci separava dalla Pinacoteca, certo. No? Sì, sì, sì. Allora, se tu ti ricordi, Adriano ci faceva sempre fare anche l'esame scritto, nel senso che in un'ora, cioè tu dovevi buttare su quei fogli tutto quello che sapevi, e io mi ricordo che feci l'esame, scrissi 10 pagine in un'ora con una velocità inaudita, poi dopo qualche giorno mi fece fare l'orale, mi fece sedere in questo cortile, cioè portò fuori la scrivania, ci fece sedere lì con un caldo atroce, veramente disumano, e mi disse: benissimo Simone, l'esame scritto è andato abbastanza bene, insomma anche 30, però va bene, ti faccio una domanda. E mi disse: Domenico Teotocopoulos. E io rimasi, sai, no? In che senso, professore? Mi scusi, che cosa vuole sapere? Mi fa: voglio sapere chi è l'artista di cui ti sto dicendo il nome di battesimo. Wow. E io rimasi, io credo che tutte le 300-400 persone che erano lì ad ascoltare rimasero con la bocca aperta perché nessuno di noi sapeva rispondere. E io gli dissi: guardi professore, mi scusi, però adesso in questo momento un po' il caldo non mi sovviene, no? Sai che lui era anche molto ironico. Esatto. E mi fa: va bene, vai a casa. E io gli dissi: ma professore, mi scusi, ma il mio scritto com'è andato? Mi fa: 30. Gli dico: ma vuole abbassarmelo? Fa: no, proprio perché non te lo voglio abbassare, ma se possibile te lo voglio aumentare. Gli dico: in che senso? Gli ho detto: ma va bene anche 28, cioè voglio andare a casa. No, mi ha detto: vai a casa. E mi fece tornare il giorno dopo, e io da quel giorno studiai Domenico Teotocopoulos, che non so neanche tu se tu sappia. No, assolutamente. È il greco. È il greco. Vedi, non lo sa nessuno. Detto il greco, ma naturalmente. Detto il greco. E praticamente ho studiato il greco. Qualsiasi cosa tu mi chieda di il greco, io la so. Esatto. Immagino. Fantastico. 333-180-94-94 se volete fare delle domande a Simona Gavioli, oppure se volete cantarci qualcosa come fa Marco Roma tutte le volte che io entro in questo studio e accendo il nostro fantastico, no, non è un iPad, è un Mediacom, e lui ci canta così. Buongiorno! Dai, che prima o poi arriverò, aspettami davanti alla porta, io arriverò per abbracciarti e per dirti tutti i sentimenti che provo per te, da Marco Roma. Buongiorno! E buongiorno a te, Marco Roma. Tu naturalmente non sapevi dell'esistenza di Marco Roma, ma lui è un personaggio fantastico che tutti i giorni a Radio Città Fujiko manda dei vocali cantati. Invece poi oggi volevo, siccome mi sono arrivati un sacco di brani e di canzoni, adesso ne voglio mettere una. La prima mi è arrivata un po' di tempo fa, anzi mi scuso con Nicola di Peyote Press che non l'ho calcolato per niente. Il pezzo si intitola Il modello di sviluppo, la band si intitola Wedding Collective, che insieme ad Andrea Frittella hanno fatto un nuovo disco berlinese che si chiama 2084. È il terzo lavoro in studio di questo collettivo italo-berlinese. Il lavoro è pubblicato, oltre che in digitale, sulle principali piattaforme DSP in due distinti e pregiati supporti fisici: fumetto più CD realizzato a mano e fumetto più vinile doppio 45 giri in edizione limitata a 20 copie numerate e autografate appunto dal fumettista Andrea Frittella. E dunque, ringraziando appunto Nicola di Peyote Press, ci andiamo a ascoltare Il modello di sviluppo. ginocchia. Un girondici coltivo l'orto. In diretta, tu spara una roba seria, che ne so, fai 5 minuti di arte contemporanea in mezzo a Sanremo e vedi la differenza, no, capito? Quello sarebbe da fare. Esatto, invece non ce la facciamo perché noi siamo promotori della divulgazione dell'arte contemporanea, ma falliamo miseramente. Miseramente sempre. Ma insomma, falliamo. Falliamo, facciamo quello che riusciamo a fare, però è difficile, insomma, la faccenda, perché l'arte contemporanea, come voi sapete, interessa a pochi. Interessa a pochi perché viene conosciuta poco, anzi, in realtà una fiera come Booming avvicina molto all'arte contemporanea, perché è più vicina al pubblico che non un'arte fiera, direi, no? Cioè, al pubblico inesperto, diciamo, sbaglio. No, hai perfettamente ragione. Poi guarda, ti do, anche se insomma i numeri non sono proprio la tua specialità. No, non sono la mia specialità. Vabbè, però no. Proprio oggi ho avuto una riunione, ti dico che il 25% dei visitatori era generazione Z, quindi, che era l'obiettivo, perché comunque era tanti anni, un po' per una questione economica, perché parliamoci chiaro, i giovani universitari, cioè già pagare un biglietto 10 euro, 15 certo. euro, difficilissimo. Un po' perché, sai, il Covid li ha un po' massacrati, no? Dal punto di vista proprio delle relazioni con l'altro. E, no, noi siamo riusciti, devo dire che era un po' uno degli obiettivi della fiera, di far tornare, speravamo, tra il 6 e il 10% dei visitatori totali, i giovani. Mm-hmm. In realtà abbiamo superato le aspettative. Il 25% dei visitatori di Booming, quindi stiamo parlando veramente di numeri abbastanza importanti, era giovani dai 20, dai 18, diciamo, ai 25-26. Ma un po' perché avevamo questo bigliettino veramente politico da 3 euro. Fantastico. Fantastico. No, infatti. Perché l'arte... No, infatti devo dire che quest'anno anche Arte Fiera ha fatto una cosa molto carina, che è stata quella di far entrare gratis al sabato gli studenti dell'Accademia di Belle Arti. Ma tu lo sai che non era mai stato fatto. Non era mai stato fatto. Mai. Sì. No, infatti. Tant'è che se tu hai intervistato Silvia Evangelisti, non so se te l'ha detto, perché poi vabbè l'ha intervistata sicuramente per la mostra straordinaria di Mondino. Certo. Cioè anche Silvia, quando era direttrice, prendeva i biglietti omaggio per darli a noi. Io lo so, perché certo. Io tipo Segugio la seguivo. Esatto. Non abbiamo mai avuto uno sguardo verso i giovani, cosa sbagliatissima perché poi sono i collezionisti del futuro, gli artisti del certo. futuro, i curatori e le curatrici del futuro. E noi con quella mossa lì di fare entrare, attenzione, aspetta, gli studenti di storia dell'arte, di belle arti, addirittura c'erano anche i miei studenti dell'Accademia di Catanzaro e poi anche di Bologna, gratis, perché i ragazzi certo. perché studiano storia dell'arte. Infatti, come giusto che sia. E poi tutti i ragazzi che presentavano un documento o acquistavano il bigliettino online, presentavano il documento che erano nati dopo il 1990, pagavano 3 euro, cioè che 3 infatti. Euro a Bologna è sì. oramai sono una un bibita, caffè con una mia, esatto, una Coca-Cola. Infatti. Cioè. Quindi grande, sì. No, sta cosa qua è importante anche perché è importante creare una nuova generazione di collezionisti, perché i collezionisti storici, ahimè, ci stanno abbandonando e non c'è un ricambio generazionale di collezionismo. Guarda. Proprio per il fatto che non c'è l'interesse per l'arte contemporanea che c'è stato negli anni 80, negli anni 70, eccetera, insomma. Io guarda, ti dico un po', abbiamo preso questa decisione, ma insomma sono tanti anni, fin dall'inizio di Setup, se tu ti ricordi, Stefano, certo. avevamo sempre un biglietto molto politico per i giovani. Assolutamente. Ma perché io ho comprato la mia prima opera d'arte fiera che avevo 21 anni, mm-hmm. cioè l'ho comprata da uno storico gallerista, Sergio Tossi. È anche un'opera importante, cioè, quindi voglio dire, alla fine tutti possono essere collezionisti. Ah, certo. Cioè, no? È solo una questione di volontà. Esatto, solo che sì, purtroppo sì. il sistema, no? Cioè, è abituato a un po' granitico. Assolutamente. No, certo. Nel pensare che un giovane non possa, insomma, effettivamente o spendere o comunque interessarsi in maniera fissa, precisa, ecco, la storia dell'arte. Questo è sbagliato. Assolutamente. E dunque, prima ancora che tu mi racconti un po' di te, perché vogliamo naturalmente sapere, ne approfitto di questo piccolo spazio per raccontare che cosa succede questa settimana. E dunque facciamo, prima della pubblicità delle 20:30, facciamo questo: l'angolo della menzione. In realtà non c'è tantissimo questa settimana, se non fosse che Renato Barilli martedì 14 febbraio, il giorno di San Valentino, alle ore 17 presenta il suo ultimo libro, Il pensiero occidentale dai presocratici al postmoderno alla luce del materialismo storico-culturale. Titolo mica da niente. È leggero come sempre Renato, eh? Esatto. Il libro è pubblicato da Mimesis Editore e l'evento è naturalmente Renato che ci racconta di tutto oltre al libro alla biblioteca dell'Archiginnasio nella sala dello Stabat Mater in piazza Galvani 1 a Bologna. Evento da non mancare. Poi abbiamo giovedì 16 febbraio alle ore 17 al Museo Medievale Lapidario, abbiamo ritrattisti a Bologna nell'età di Papa Lambertini in occasione della mostra Verità e Illusione, figure in cera del Settecento bolognese che devo ancora andare a vedere, devo assolutamente andarci. Presso il Museo Davia Bargellini c'è la conferenza di Irene Graffiani al Museo Medievale. L'ingresso è gratuito e trovate tutto sempre come al solito su coxospaziale.blogspot.com da domattina. Sempre giovedì alle 18:30 abbiamo al Mambo, il Museo d'Arte Moderna di Bologna, la presentazione del vinile La Stanza sul Fiume, Orbitize Listening Music del 2021, che nasce dalla collaborazione tra Enrico Serotti, musicista, ed Enzo Minarelli, poeta. L'incontro è nella sala delle conferenze e del museo e prevede una breve presentazione alla proiezione di alcuni video. Partecipano Enzo Minarelli ed Enrico Serotti, introduce Uliana Zanetti. A seguire abbiamo il braccio e la voce, l'esecuzione dal vivo a cura di Enzo Minarelli ed Enrico Serotti sul palco di Impressions, che è l'opera di Massimo Bartolini che fa parte della collezione permanente del museo. E questo è al Mambo giovedì alle 18.30. Sempre giovedì invece alle 19.30 abbiamo Raffaele Milani che presenta l'ultimo numero della rivista Italian Poetry Review. Introducono il direttore Paolo Valesio e l'artista Maurizio Osti, il cui libro Francobolli Francobolli, realizzato in collaborazione con la poetessa Giulia Nicolai, è presente nel numero ed è a lei dedicato, il numero è dedicato a lei. Questo è allo studio Cenacchi Arte Contemporanea in via Santo Stefano 63. Mentre invece abbiamo venerdì 17 febbraio alle ore 18, aspettate che abbasso questa musica di sottofondo che non capisco queste scoregge che ci sono, ogni tanto è così, Coxo è sempre così. Alle ore 18 abbiamo fino al 2 aprile 2023 il Museo Civico del Risorgimento accoglie nella sala polivalente la mostra Teste di Legno a Carnevale a cura di Riccardo Pazzaglia. In periodo carnevalesco non si poteva non attingere da quello scrigno senza fondo, variopinto e fantastico, rappresentato dalle antiche maschere italiane. Ognuna è una bandiera del territorio che le ha dati natali e che essa a sua volta rappresenta. La mostra appunto inaugura il 17 febbraio alle ore 18 al Museo Civico del Risorgimento, che è in piazza Carducci 5. E via così. Tu invece dov'è che vai questo venerdì e questo sabato a vedere mostre? Ma in realtà, guarda, non ho ancora fatto il programma, credo che lo farò domani, ma sicuramente la prima mostra che vedo è quella di Aldo Mondino, in assoluto. Certo. E poi devo ancora guardare tutto il programma, perché effettivamente sulla main di Art City ce ne sono tantissime. C'è tantissima roba, alcune ahimè sono già chiuse, per esempio io non posso fare a meno di consigliarti di andare a vedere Eva Marisaldi al Laboratorio degli Angeli, che è una mostra veramente molto bella, che chiude, se non sbaglio, questo fine settimana, e anche questo fine settimana chiude Bettina Buch alla Fondazione Banca di Bologna a Palazzo De Toschi, e di questo però ne parleremo fra un pochino, subito dopo la pubblicità, perché abbiamo intervistato Davide Ferri che appunto ci racconta di questa mostra. È una mostra un po' difficile, devo dire, perché è super concettuale, super minimale, però io l'ho trovata veramente veramente commovente. Ma prima di questo, naturalmente, abbiamo la pubblicità delle 20.30, anche se il mio orologio dice solo le 20.27. Coxo spaziale! Lei associa subito. Ed eccoci ritrovati in studio con Simona Gavioli, ma ti volevo appunto... Oddio, che cos'è questo rumoraccio di fondo? Forse sono io qui, eh? Ah sì, era il mio mixer. Sai, come ti dicevo, la nostra console ha una certa età e dunque... No, ti dicevo che ti volevo far sentire appunto Davide Ferri che racconta la mostra di Bettina Buch. La mostra di Bettina Buch alla Banca di Bologna è su fino al... domenica prossima, se non sbaglio, fino al 18-19 febbraio, e se hai modo assolutamente ti consiglio di non mancarla. E abbiamo appunto chiesto, cioè abbiamo, plurale maiestati, sono sempre io che vado in giro a rompere i coglioni alla gente, abbiamo chiesto a Davide Ferri di raccontarcela ed eccolo qui. Palazzo Toschi quest'anno celebra o vuole raccontare, così anche brevemente, non in forma esaustiva, naturalmente il lavoro di Bettina Buch, che è un'artista tedesca, però vissuta fra Berlino e Londra, scomparsa prematuramente, però la mostra racconta due decenni abbondanti di lavoro. E, dicevo che è una mostra, io partirei dal titolo, no? Finding Form, cioè cercando, sì. Trovando la forma, però con questo gerundio che è un po' dall'idea, certo, che è un po' più cercando, in italiano è più vicino a cercando, che non si risolve, no? Esatto. Questa idea di cercando di trovare la una forma che non forza. Che non si cristallizza in una forma definitiva, stabile, ma in movimento, in divenire. Questo è sicuramente il primo aspetto che accomuna molti lavori in mostra. E poi c'è questa idea un paio di idee molto forti, cioè l'idea che proprio finding form, che la vita di Bettina Buck sia stata una inesauribile ricerca della forma, e l'idea che la scultura sia una forma capace di accogliere il divenire della vita, capace proprio di tradurla in immagine, questo divenire della vita. E poi l'altra cosa probabilmente molto importante rispetto a questo finding form è anche il rimando a un atteggiamento di Bettina Buck rispetto alle cose, cioè chi l'ha conosciuta come me si accorgeva che Bettina guardava molto lateralmente, no? Molto ai margini, anche a cose impensate, che impensate perché molto ordinarie. Allora queste cose impensate perché molto ordinarie, però all'improvviso diventavano materia della scultura. E allora si parte da qui a riflettere su questa mostra, dai materiali che sono poveri. So che dire poveri è pericoloso, no? Certo. Ovviamente. Però è così: plastica, polistirolo, cartone, gomma piuma, e qui la gomma piuma torna in moltissimi lavori. Allora la prima idea ovviamente con cui abbiamo costruito la mostra, dico abbiamo perché la curatela è mia in collaborazione col Bureau Bettina Buck, che ha in qualche modo ereditato il lavoro e si prende in carico proprio lo sviluppo del lavoro, la mostra l'abbiamo pensata così, come un ritornare di materiali, come una relazione fra materiali che si svolge non solo all'interno delle singole stanze, ma anche di stanza in stanza. Lo puoi vedere con questa gomma piuma che è al centro del lavoro video nel salone grande, ma è anche al centro di questo lavoro video che è nell'altra sala, è qui, no? in questa specie di pilastro che diventa architettura dello spazio, e dietro nella parte di là. Ecco, insomma, quindi questa è sicuramente la prima cosa. L'altra cosa è proprio l'idea di aver agglutinato, mi verrebbe da dire, attorno ad alcune parole molto importanti, le opere di Bettina Buck. E la prima sicuramente è Corpo, o detto con un'unica soluzione, corpo scultura, no? L'idea che corpo e scultura si contagino reciprocamente, e è un'idea molto forte appunto in Interlude, o una suggestione molto forte in Interlude, che è un video che è la traduzione, che è la documentazione della performance in realtà, cioè una lunga camminata che l'artista fa in un tratto di campagna inglese portandosi dietro questo parallelepipedo, mi viene da chiamarlo, non so, non mi piace tanto parallelepipedo, però questo è in realtà, certo, di gomma piuma, così come una persona porta a passeggio il cane, no? nella campagna. Ha delle dimensioni specifiche, e questo parallelepipedo è un pochino più grande del suo corpo, no? Okay. In altezza, però non è tanto importante la dimensione, okay, quanto che questo parallelepipedo dia l'idea di un fardello, di un peso, sì, e può però anche diventare altre cose, ad esempio scultura potenziale, quando il corpo se ne distacca, oppure quando è in orizzontale semplicemente una seduta, un punto d'osservazione, no? Da cui guardare al paesaggio, o in questo caso, come nel video che stai guardando in questo momento, il museo, perché questo video invece, che è nella sala piccola, mm-hmm, è un'altra versione, diciamo così, di Interlude, o una prosecuzione, si chiama Another Interlude, ed è una camminata che l'artista fa all'interno della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, sempre di 8 ore, così attraversando le sale, sempre portandosi dietro questo parallelepipedo di gomma piuma, che messo vicino alle sculture diventa proprio possibilità di relazione di questa forma potenziale con le opere esposte, no? Vicino alle opere della Galleria Nazionale, oppure diventa punto d'osservazione, seduta e panchina da cui guardare le opere all'interno delle sale. È comunque molto forte, come ti dicevo prima, questo senso di fatica, no? Del corpo, certo, nel trascinarsi dietro questo oggetto. C'è questa dimensione della fatica sicuramente, ma c'è anche c'è anche ironia, perché poi in fondo, come sì, dicevo prima, no? il parallelepipedo che viene portato dall'artista equivale un po' in fondo a una figura, pensavo, della pittura, cioè l'artista solitario che porta a passeggio il cane, no? E se penso, non so, ai quadri, di certi quadri di Courbet che amo molto, Autoritratto con cane nero, Buongiorno signor Courbet, l'artista è figura, Buongiorno signor Courbet no, però è comunque figura solitaria, certo, che porta a passeggio il suo cane e cerca un contatto privilegiato col paesaggio, isolandosi appunto, ma avendo semmai come unico amico appunto il cane, per cui ecco, pensandoci, no, c'è anche questo legame. Il video è paesaggio e figura, ma richiama la pittura, anche la storia della pittura in questo senso. E poi dicevo corpo, corpo scultura, la prima parola, poi probabilmente postura, verticalità, messa in discussione di questi di verticalità. In fondo il lavoro che accoglie il visitatore è questa composizione di scatole di cartone che richiama anche l'idea di spostamento della scultura. Quasi tutti i materiali di cui, che lei fa diventare scultura, sono materiali secondari, direi, cioè i materiali sì, che di solito si usano per trasportare, esatto, la scultura, esattamente, no? Che però diventano scultura e parlano della scultura perché hanno avuto questo rapporto privilegiato con la scultura e si sono contaminati di scultura, eh? E queste scatole sono la replica, però, quindi scatole, uno dice vabbè, ma hanno lasciato le scatole della mostra no, certo, proprio appena dopo l'ingresso, ma queste scatole sono anche la replica in scala 1-1 di alcuni basamenti di statue di Rodin al Victoria and Albert Museum di Londra, che fanno parte appunto di una donazione che Rodin fece nel 1914. Quindi in qualche modo queste scatole, che sono scatole che parlano di componibilità, che parlano di movimento, che parlano di viaggio, che parlano di spostamento, sono anche invece una messa in discussione, poiché rinviano anche l'idea di basamento, della stabilità della scultura, no? della postura, della verticalità, postura in quanto appunto scultura come articolazione fra basamento e statua, che è così importante, no? Nella nostra testa, quando anche ci confrontiamo con le sculture del nostro tempo, che ovviamente si distaccano da queste idee. E poi la gravità, il collasso, la caduta, questo è un altro movimento a cui sono sottoposto, un'altra forza a cui le sculture sono sottoposte. Per esempio quelle forme, quelle colonne, quelle tre colonne che sempre sono nella prima metà della stanza grande, diciamo così, e che sono oggetti semplici, perché sono fatti di una tela su cui è applicato questo strato di piastrelle di bianche, come quelle che si usano comunemente nei bagni o nelle cucine, che sono destinate inevitabilmente a crollare, a cadere sotto il loro stesso peso, no? Per cui adesso le vediamo in piedi nella forma di colonne, o magari fra una settimana, fra due settimane, o quando la mostra sarà finita, qualcuna di queste tre sarà un semplice rettangolo di piastrelle a terra, perché effettivamente cadrà, no? Per cui c'è anche questa tensione che si sente fra i tre oggetti e fra i nostri corpi quando ci avviciniamo a queste tre colonne, perché ne percepiamo l'instabilità. No, in effetti devo dire che è una mostra che fa quasi piangere, proprio perché la potenza di questo finito che ci massacra, sì, no? Cioè io guardando sti lavori, pur non sapendo nulla dell'artista, sì, devo dire che li ho trovati veramente emozionanti, proprio perché ti buttano in faccia il nostro essere finiti, sì, il tempo che ci usurerà. Sì, è proprio così. Sai che devo dirti una cosa, guarda, se ci avviciniamo un attimo camminando, certo, anche se non si possono vedere, però camminando vicino a questo elemento, sempre di gomma piuma, perché stavo pensando, il nascondere è un altro elemento importante del lavoro di Bettina Bucca, cioè questa è una forma di gomma piuma che diventa un pilastro architettonico, misura la distanza fra parete e pavimento. Però il pubblico non vede nient'altro che appunto questa forma. Sì, pensa che sia una colonna, no? Ricoperta. Una colonna ricoperta. Ecco, all'interno invece è conservata questa testa di medusa, che è una scultura modellata dall'artista, con cui non posso avere una relazione. Lo sguardo fra medusa e l'altro è ovviamente fondamentale, invece qui mi è negato questo rapporto con lo sguardo. E c'è anche questa specie di atto di fiducia che lo spettatore deve fare nei confronti del, ovviamente questa è la base di molte, certo, opere, no? Devi credere che dentro ci sia, sì, no, in effetti è una cosa proprio di quello che dicevi prima, cioè della vulnerabilità, no? Del corpo, della finitezza. Quando questo lavoro è entrato un po' mi disturbava questi segni di nero, no? che sono ho detto troviamo un modo per pulirli, non abbiamo a che fare con un artista degli anni 60-70, ma di un artista che in fondo ha lavorato negli anni 2000, certo. E Martin e John, che sono i due responsabili del bureau Bettina Book, mi hanno detto beh, insomma, guarda un attimo quei parallelepipedi che lei si trascinava nei musei, quanto sono sporchi, no? Per cui anche questa idea che non c'è lucentezza, no? Nei suoi materiali c'è un'opacità strana, un'opacità che parla appunto di questa finitezza di cui tu proprio parlavi prima. Sì, no, in effetti L'opacità della vita è, sì, è quello che, sì, rende questa mostra difficile. devo dire che i fruitori, che magari i fruitori di Art City, no? Quelli che si fanno il giro, sì, verranno qua e diranno: cos'è sta roba? Non si capisce. Certo. E invece io non posso far altro che esortarli a venire con gli occhi aperti, certo, e la mente aperta, perché, certo, questa veramente. Sì, chiaramente forse il limite, ma è anche la sfida di questa mostra, è che una passeggiata veloce non permette una fruizione, no, come completa, si deve. Anzi, abbiamo fatto questo foglio di sala che è una piccola pubblicazione, quasi un catalogo, infatti. Abbiamo affidato. Ah, fra l'altro, il infatti, commento, volevo farti i complimenti per questa cosa, perché è un'idea bellissima. A ciascuna delle opere in mostra ad amici artisti, sì, di Bettina, no? Per cui le parole per questi lavori sono proprio prestate, sono anche ovviamente ricordi commossi. Infatti. Da alcuni artisti con cui lei ha avuto una relazione forte. Tra gli italiani ci sono Paolo Icaro e Italo, perché per me era importante avere Italo per Tuffi, perché, certo, è un livello di congiunzione fra la mostra che abbiamo fatto lo scorso anno e, certo, quest'anno. Ma anche Chiara Camoni, Rosa Barba, insomma, per cui. E poi ci sono molti artisti stranieri, naturalmente. Io ti ringrazio moltissimo, e la mostra sta su fino al 19 febbraio. Grazie. Assolutamente, grazie, da non mancare, grazie a te. E dunque non mancate la mostra di Bettina Buch, che naturalmente stiamo parlando di arte contemporanea. Stiamo parlando di arte contemporanea, non dimentichiamocelo, infatti siamo qui con la critica, ti definisci sempre una critica, Simona Gavioli, vita da critico, sì. Hai un Instagram abbastanza particolare dove racconti le vicissitudini di... Dove racconto la vita folle sotto... Che in effetti ci vuole molto amore per fare quello che facciamo. Ah, per forza, cioè sai, stiamo sui treni tutta la vita, sugli aerei tutta la vita, lavoriamo 7 su 7, 365 su 365. Ci vuole amore. Ci vuole amore. Ma anche follia. Sì, tu da quanto tempo fai questo mestiere? Ah, allora, quest'anno più o meno in maniera fissa, diciamo, dovrebbe essere il 18° anno. Cavolo. Più o meno. Però poi, insomma, anche durante il periodo di Bilbao, della Francia, insomma, già un po' mi cimentavo, ecco. Mm-hmm. Però, insomma, definitivamente dal 2005, definitivamente, insomma, faccio questo lavoro. Perché tu non solo curi, cioè dirigi questa fiera d'arte contemporanea Booming, ma fai anche un sacco di altre cose. Sì. Sì, sì, faccio un sacco di altre cose. Anche nel posto da cui vieni, giusto? Cosa combini a Mantova? Ma allora, guarda, Mantova, finalmente, sai, io sono stata via da Mantova snobbando questa città. Vabbè, magnifica. Come si fa, dai? Come si fa di solito, però, infatti, no? Sai, uno scappa. Poi, vabbè, io devo dire che frequento Bologna da quando avevo 14 anni, poi in maniera fissa 18, insomma, mi sono installata qua con la residenza e vabbè, facendo studi. No, in realtà a Mantova faccio diverse cose. Una, insomma, quella più longeva è il Festival Without Frontiers, Lunetta Colori, che è questo festival di rigenerazione urbana con l'arte contemporanea di questo quartiere, che è sempre stato considerato, sai, quei quartieri periferici, insomma, che vengono considerati un po' come la nostra, come il nostro pilastro, ecco. Certo. Tant'è che mi sembra che abbia anche lo stesso architetto alcuni palazzi. Ok. E quindi faccio questo progetto di rigenerazione urbana dove, insomma, in 8 anni abbiamo invitato più di 130 artisti da tutto il mondo, e dove ci sono tutta una serie di azioni che non sono solo quelle delle opere su grande scala, insomma, che sono quelle un po' più riconoscibili, però in realtà anche tutte quelle azioni che sono l'arte partecipata, i laboratori fatti con artisti che si occupano d'arte contemporanea, che insomma hanno sensibilità incredibili. Per esempio, ho invitato gli Antonello Ghezzi, mm-hmm, ho invitato i Pane e Merci Circense, insomma, per menzionare qualche bolognese. E poi, insomma, questa, dall'anno scorso addirittura avevamo questo sogno insieme a tutto il team, che è lo stesso team di Booming, è praticamente tutto un team al femminile, a parte l'unica quota azzurra del gruppo, che ha una grande supportazione. Avevamo l'idea di in qualche modo riuscire a recuperare tutti questi negozi che sono stati abbandonati nel, circa nell'85-86, che sono più di 30. Vabbè, non abbiamo cominciato con 30, abbiamo cominciato con 3, e in uno ci abbiamo fatto l'ufficio e negli altri abbiamo messo gratuitamente, con il contributo del Comune di Mantova, una scuola di teatro, una scuola di pittura, insomma, per bambini, per ragazzi. E quindi, insomma, diciamo che è diventato un cordone, che quest'anno ha vinto anche il Creative Living Lab, che si chiama Lunetta Cultural Camp, e facciamo tutta una serie di azioni dedicate alla popolazione, fatta con la popolazione, non per la popolazione, certo, con, che è perché diverso. È una cosa molto diversa, assolutamente, no? Perché altrimenti, se facciamo per, vuol dire sempre che tu ti posizioni a un livello superiore, cosa che non è così. Poi Lunetta, questo quartiere che affaccia veramente sulla Camera degli Sposi, praticamente, mm-hmm, sul Castello di San Giorgio, ha 18 etnie, insomma è un quartiere molto vivace. E poi, vabbè, insomma, a parte questo Lunetta Cultural Camp, a parte il Festival Without Frontiers, insomma, che facciamo ogni anno, io lavoro anche per Palazzo Te, quindi uno dei sogni della mia vita. Sì, devo dire che è uno dei sogni da bambina. Insomma, finalmente il Covid mi ha regalato, insomma, questa grande opportunità. Insomma, faccio un progetto di ricerca per la Fondazione Palazzo Te. Che meraviglia. Da 2 anni. Wow. Per cui, insomma, a Mantova, devo dire, poi faccio un festival che si chiama Climate Sea Change, tutto dedicato al cambiamento climatico. Invitiamo artisti. Quest'anno abbiamo invitato un'artista africana, Zana Mosumbuka, in residenza 3 settimane a Mantova. Diciamo che Mantova è una città in cui faccio tante cose. Fantastico. Incredibilmente, insomma. Io invece ti interrompo per raccontare che è uscito Demetra, il nuovo album di Tenedle, che è questo artista che sta in Olanda, ed è il suo 8° album di questa one man band di base in Olanda, pubblicato da Sussurround. Cercavo elementi che rappresentassero la natura, ma in senso più drammatico rispetto alle icone legate a quelle della dea Demetra, che spesso viene rappresentata in scene pastorali. E dunque ci andiamo ad ascoltare Eden, oppure Eden, non so se lo pronuncia in maniera olandese oppure inglese oppure in italiano. Comunque ringraziamo la nostra meravigliosa Francesca Grispello di Sim Press, che ci ha spedito tutto l'album, e dunque potete ascoltarvi Eden. in radio un'ora dura un quarto d'ora. Rimettiti la cuffia perché ti ho abbassato un po' l'audio di Tenedle e perché altrimenti ci finisce il tempo. Io invece volevo continuare a chiacchierare con te. Stavamo parlando di Sanremo e del famigerato bacio tra Fedez e com'è che si chiama lui? Rosa Chemical. Rosa Chemical, che fra l'altro a me è stato simpaticissimo lui, devo dire. Sì. Non credo che la Ferragni si sia particolarmente alterata per questo bacio, più che altro si sono alterati un sacco di tromboni che continuano a non accettare il fatto che il mondo va avanti anche senza il loro permesso, capito? Esatto, come se il mondo per andare avanti avesse bisogno del loro permesso. Esatto. Per fortuna non è così e io non credo assolutamente che Chiara Ferragni, che è una donna estremamente intelligente, una grande imprenditrice, una donna aperta, si sia arrabbiata, insomma, per questo bacio tra uomini, che voglio dire dovrebbe essere la cosa più normale del mondo. Infatti. Almeno io credo che la cosa fondamentale sia essere quello che si vuole essere, insomma, non è tutto sto, come dici tu, questi tromboni che ancora dicono la Chiara sei arrabbiata, il bacio tra uomini in pubblico perché Sanremo è Sanremo, che palle, scusate il francesismo. Esatto. Però bisogna stare un po' al passo con i tempi, cioè non so, d'altronde lo diceva Platone, no? Cioè la questione dell'amore non è una questione di generi, non è una questione di, è una questione di amore, punto. Certo. Cioè ognuno deve essere libero di amare e di baciare chi vuole. Esatto. Di qualsiasi sesso, di qualsiasi genere esso sia. Assolutamente. Ma tu anche tu con Booming comunque lavori sull'eguaglianza di genere o sbaglio? No, io guarda, finalmente proprio un po' ne parlavamo prima, ma anche in tutte le riunioni che abbiamo fatto in questa settimana, cioè finalmente siamo arrivati a un mettere un punto, cioè dopo tanti anni di lavoro su quel famoso punto, il punto numero 5 dell'agenda 2030 dell'Europa, no? Cioè che è quello dell'uguaglianza di genere. Finalmente anche in Italia e finalmente anche noi dell'arte, perché noi abbiamo dobbiamo assolutamente, facciamo tanto gli aperti mentalmente, ma su alcune cose siamo di un bigotto spaventoso. Siamo di un bigotto spaventoso e invece dobbiamo assolutamente mettere i puntini sulle i e dobbiamo lavorare tantissimo nella direzione dell'uguaglianza di genere e soprattutto sulla tematica che è quella di essere ciò che un individuo vuole essere. Quindi Booming ha preso proprio una posizione, no? Cioè, ma molto forte su questa questione, perché è arrivato il momento di smetterla, cioè di smetterla di pensare quello giusto, la cosa giusta, l'individuo giusto, la sessualità giusta, il genere giusto sia quello maschile, occidentale, oppure bianco. Alle volte io ogni tanto trovo abbastanza cringe anche l'uso della parola normale, no? Normale. Come dire, cioè, che cos'è normale? Capito? Esatto. E su ste robe, devo dire che poi io sono sempre molto critico, perché anch'io. Per esempio anche all'interno delle accademie, non so se l'avrai notato anche tu benissimo, che la percentuale di studentesse è 10 volte tanto quella degli studenti maschi, eppure quando ci sono le mostre 5 maschi e 5 femmine, tu dici ma com'è sta cosa? Scusa, cioè su 1400 studenti 1200 sono studentesse, non è possibile che quando devi scegliere i lavori ci sono 5 maschi e 5 femmine, capito? Allora devo dire che io ho effettivamente tantissime studentesse però ho anche tanti studenti con una grande sensibilità femminile. È vero. E ho tanti studenti di sesso maschile che hanno una propensione o un rispetto un po', vuoi che sai, magari perché sono in Calabria, non te lo so dire, non ho parametri di confronto. Ok. E devo dire che c'è una grande difesa, insomma, di quello che è l'essere ciò che si vuole essere, la questione della sottorappresentazione delle donne nell'arte. Devo dire che Catanzaro, insomma, piano piano, nonostante si possa pensare il contrario, effettivamente io vedo insomma che c'è una grande lotta anche per gli studenti che sono nati insomma con sembianze maschili, diciamole così, perché adesso non vorrei dire su una grande difesa sulle donne nell'arte o anche sui vari generi nell'arte, perché poi noi vediamo, come professori vediamo di tutto, ed è straordinariamente fantastico vedere di tutto. Infatti, no, devo dire che io lo ritengo veramente un privilegio quello di poter vedere che cosa succede nella mente dei ventenni. Sì. Detto questo, ahimè, il nostro tempo sta per terminare, per cui non so se c'è qualcos'altro che ci vuoi raccontare. Cosa no, in realtà hai mai detto che sta per uscire qualcosa di tuo, questo saggio? Sì, negli ultimi minuti, proprio sa, il 23 di febbraio stavo, che non è così lontano, che è proprio qua, appunto. E l'ho scritto proprio nel periodo di delirio di dicembre di Booming, quindi ma esce questo piccolo saggio, io dico per bambine e bambini o per adulte e adulte ribelli, perché di questo è, si chiama Fiere, è Oligo Editore. Grande. Uscirà fra pochi giorni, è praticamente un saggio in cui ci racconta, un po' racconta a partire da Giulio Romano, quindi ci racconta il mecenatismo e ci racconta tutta la questione di come è cambiato il mondo dell'arte, di come è cambiato il sistema fieristico, ma come ancora allora, come nel Cinquecento, ai giorni nostri, insomma, sia fondamentale la figura del mecenate, del collezionista, quello che chiamiamo adesso, però poi dà delle chicche che sono praticamente dei pugni nello stomaco, insomma, di cose avvenute per mettere in piedi questo sistema fieristico, che secondo me sono anche delle chicchine, insomma, che si possono anche approfondire. Però fantastico. E lo presenterai a Bologna da qualche parte prima o poi? Sì, se non mi arriva una denuncia prima. Okay. Cioè, ho cercato di essere sottile, ma fino a un certo punto, perché poi a me, fin dei conti, prendo atto e me ne sbatto. E insomma, la verità va raccontata. Prendo atto e me ne sbatto, mi sembra un ottimo motto. Lo presenterò. Vediamo un po' come andranno le situazioni. Io ti ringrazio tantissimo, Simona Gavioli, per essere stata qui, e naturalmente vi saluto con le solite parole poco simpatiche del nostro direttore di radio, che ci saluta così. Io ero Stefano W. Pasquini e questo era naturalmente Coxo Spaziale, e come al solito ci risentiremo con anche Mia lunedì prossimo. Ecco il nostro direttore che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Ed ascoltiamo il pezzo più bello di Sanremo, che è Madame. Ah, wow. Io sono innamorato di Madame. Ciao Simona, grazie. Ciao Stefano, grazie mille a te. Ti ho rivisto dopo tanto, tanto, tanto, tanto tempo. Come previsto, tu eri tanto, tanto, tanto, tanto bello come un tempo. Hai cominciato a parlare, mi aspettavo, mi mancavi. Invece hai parlato tanto, tanto, tanto, tanto, tanto amore, quello che ti ho dato. Se la memoria non mi inganna, quanto ti sei ingarbugliato nel pensare che ti volessi male. Nelle tue idee, alla fine sbottato, hai detto guarda, tanto, tanto, tanto, tanto amore. Tu sei l'errore più cattivo che ho commesso nella vita, amore. Tu sei, se lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita, amore. Tu sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli ancora. Tu sei la puttana che ha ridato un senso ai giorni. Nel bene e nel male, sei bene e sei male. Bebe, nel bene e nel male, fai bene e fai male. Quanto bene e male, nel bene e nel male. Amare sta il bene, amare sta il male, non male per mai. Non sono nemmeno un dolce ricordo, a me è rimasto rimpianto, a te soltanto rimorso. E ho paura di te, ho sempre avuto paura di te. Non ti ho mai dato il cuore, già sapevo che sarebbe stato un grosso sbaglio. Il cuore va tenuto dentro il petto per poter ancora respirare. L'amore è solamente di chi prova amore, non è di chi lo riceve. E io che l'ho provato ad ogni tocco tuo, posso dire che a me è rimasto il bene. A te il male, a me il bene, a te il male. Bevi nel bene e nel male, fai bene e fai male. Quanto bene e male, nel bene e nel male. A me resta il bene, a te resta il male. Tu mi amore, amore, amore, tu sei. Se l'errore più cattivo che ho commesso nella vita, amore, tu sei. Se lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita, amore, tu sei. Se la prova che gli errori sono fatti per i falli, ancora tu sei. La puttana che ha ridato un senso giornale. Dopo tanto, tanto, tanto, tanto tempo. Era tanto, tanto, tanto, tanto tempo. Dopo tanto, tanto, tanto, tanto tempo.